Sabino. Sabè. Oh, respira. Respiri profondamente. Sabè. Oh, oui. Vega brutta cosa. Sabino. Oh, mia plec. Sabè. Oh, mia plec. Sabè. Oh, io. Sì. E la susta, che la gamba non spara. Che te chiena da merda. Sabè. Sa bene, tu da parlare, o non credo? Che amici stai per te? Ma ora sa bene, a pezzi da me. Oh, bella. Bella sa bene, fu. Vabbè, ma come sei? Ma giù la carta. Beh, oh. Non è no. Oh, fammi venire pure a me. Aspi. Yeah,